Thank you. We'll be right back.

We'll be right back. si è sentito, no? Che facevano un po' in difficoltà. No. No, su poliziesco.